E continuiamo, se non vi dispiace, a fare un po' di rassegna stampa. Non so voi, ma io sono stato colpito da due notizie sui giornali di mercoledì. Due notizie in sé non particolarmente rilevanti, ma tali, se prese congiuntamente, da dare spunto a qualche riflessione. La prima riguardava l'uscita da San Vittore di Patrizia Cadeddu, che tutti adesso chiamano con burocratica precisione Maria Grazia, ma se lei preferisce farsi chiamare Patrizia avrà i suoi motivi e non si capisce perché non darle retta. Si tratta, come ricorderete, della cosiddetta postina di Radio Popolare, cioè della donna accusata di aver recapitato alla nostra sede di Via Stradella la rivendicazione di un attentato incruento a Palazzo Marino il 25 aprile del 97. Identificata grazie alla lettura di una cassetta video che tutti quelli che l'hanno vista assicurano essere assolutamente illeggibile, era stata condannata senza uno straccio di prova a 5 anni di carcere, poi ridotti a 3 anni e 9 mesi in appello. E se gli è fatti tutti, giorno dopo giorno, senza usufruire di sconti, riduzioni di pene, pene alternative di sorta, che è un fatto, ne converrete, piuttosto inconsueto, persino in un sistema penale come il nostro. I giudici d'appello a suo tempo le avevano negato persino la scarcerazione anticipata a cui in seguito alla riduzione della condanna avrebbe avuto diritto, perché il suo atteggiamento non era sembrato loro in sostanza abbastanza rispettoso. Figuratevi chi aveva continuato e continua a proclamarsi innocente del reato scrittore, che è una cosa che in Italia chiunque sia accusato di qualsiasi cosa notoriamente non deve fare mai. Perché in Italia, che ne dicano Costituzione e Codice di Procedura, chi viene accusato di qualcosa è considerato colpevole finché non si pente e non si mette a collaborare con l'accusa. E se non ha niente di cui pentirsi o l'accusa non ha bisogno della sua collaborazione, sono cavoli suoi. Per aver preteso di non adeguarsi a questo modello, la sciagurata, che oltretutto si professava di fede anarchica, era stata adeguatamente punita. La seconda notizia riguarda la deposizione in corte d'assise del generale Gianadelio Maletti, l'ex capo del controspionaggio dei tempi della strategia della tensione, che ha lasciato il suo esilio di Johannesburg, in Sudafrica, per venirci a raccontare come dietro le trame e le stragi di quegli anni bui ci fosse, guarda caso, la mano della Central Intelligence Agency, la non mai abbastanza lodata CIA, che è una verità non precisamente inedita, che i magistrati dell'ultimo processo per Piazza Fontana hanno deciso adesso di far approdare anche in sede giudiziaria, ed era anche ora. Non venitemi a chiedere che cosa c'entra il generale Maletti con Patrizia Cadeddu. Non c'entra nulla, naturalmente. Il fatto che delle vicende di entrambi si sia data notizia sui giornali lo stesso giorno è solo una coincidenza. Entrambi sono stati coinvolti marginalmente in oscure faccende di bombe ed entrambi ne hanno subito delle conseguenze penali, ma lei ormai è una ex galeotta, mentre lui in galera non ci ha mai messo piede nemmeno per sbaglio. Le sue condanne le ha rimediate anche lui, per un totale salvatore di 31 anni di carcere, 14 dei quali in via definitiva, ma non ne ha mai scontato un giorno che fosse uno. E continuerà, suppongo, a non scontarne, perché pur di farlo deporre gli hanno concesso per la prima volta nella storia giudiziaria del paese un apposito salvacondotto che gli ha permesso di schivare qualsiasi mandato di cattura e di ritornarsene bello e tranquillo in Sudafrica. Tutto qui. È solo una coincidenza, anche se ammetterete anche voi che come coincidenza è abbastanza strana. In fondo, entrambi i personaggi sono stati debitamente condannati da uno o più tribunali della Repubblica e il loro diverso destino penale farebbe supporre nella giustizia italiana uno strano atteggiamento bifronte. La capacità di esibire da un lato la più inflessibile severità e di ostentare dall'altro la flessibilità più accomodante. E certo, i due casi sono diversi, perché sono diverse le logiche giudiziarie che vi presiedono, e poi c'è una bella differenza tra un'anarchica abbastanza smandrappata, usa frequentare i centri sociali e altri ambienti disdicevoli, e un generale dei servizi, sia pure un po' troppo corrivo sull'attività di certi alleati, un po' troppo propenso a depistare costi quel che consci le indagini che potrebbero coinvolgerli. Ma visto che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, la circostanza che a l'una siano stati negati benefici di legge, mentre all'altro sia stato concesso un salvacondotto per risparmiargli una 30 anni di detenzione, resta un fatto che dimostra, seppure ce ne fosse bisogno, come nel nostro modo di fare giustizia, con le virgolette, mi raccomando, non dimentichiamoci mai le virgolette, come nel nostro modo di fare giustizia c'è proprio qualcosa di strano.